trovarsi era sempre o una lode oppure un enfatizzare le grandi caratteristiche che ha la nostra Costituzione più bella del mondo. Allora mi è venuto quel piccolo lampo, diciamo, di genio, genio molto alla lontana, diciamo, ho detto vabbè, allora, visto che mi piace scrivere e non ha ancora fatto nessuno questo tema, lo svolgo io. Allora così ho iniziato a buttare giù un po' di pensieri e poi li ho riordinati seguendo una traccia logica che fondamentalmente è quella dei principi fondamentali, perché questa è una cosa che secondo me bisogna specificare. Questo, diciamo, è un libro di critica soprattutto ai principi fondamentali, alla parte, sì, e alla cosiddetta Costituzione economica, che sono gli articoli dal 40, Sì. quindi non è proprio una critica totale, è una critica, diciamo, a quella che Mortati, il grande giurista Mortati, definiva la Costituzione materiale, ovvero quell'impianto di valori che vengono cristallizzati in un determinato periodo storico all'interno di una Costituzione. Allora, giustamente ho detto prendiamo questi valori e proviamo a vedere quali sono e se sono soprattutto ancora attuali adesso. Allora, ovviamente se uno legge la nostra Costituzione si rende conto, secondo me, al di là di tutta la retorica, al di là degli spettacoli di Rai 1 e tutto quanto, che i principi fondamentali della nostra Costituzione non sono più adatti al periodo storico in cui noi stiamo vivendo. E sarebbe necessario dare una rinfrescata. Però ovviamente qui, penso come sapranno anche gli studenti, i professionisti che già abbiamo nel pubblico, che per modificare i principi fondamentali sarebbe necessaria un'assemblea costituente, che non è che si possa fare con una riforma costituzionale. Però questo ovviamente non ci esime dal fare quell'esercizio di indipendenza intellettuale e dire proviamo a vedere se riusciamo ad elaborare qualcosa di meglio e soprattutto a capire cos'è che non va. Perché bisogna dire che ciò che rende la nostra Costituzione vecchia è soprattutto anche i suoi collegamenti con l'economia. Il collegamento con l'economia nei principi fondamentali si sente, perché è un impianto valoriale che è quello che era quello dei regimi socialisti, diciamo, dell'ex patto di Varsavia, perché quella era la derivazione della nostra Costituzione. Adesso io comunque oggi faccio già un'anticipazione, come ho detto prima, ho portato la bozza del libro che sto scrivendo nuovo, che è sulla riforma costituzionale. Il mio è un no netto alla riforma costituzionale, quindi giustamente qualcuno del pubblico potrebbe dire: hai scritto un libro contro la Costituzione, adesso che la vogliono riformare ti opponi. Il problema è che la riforma costituzionale di Renzi non va a toccare quello che io ho scritto qui, va a toccare quelli che sono gli equilibri dei poteri dello Stato, è una Però cosa qui ti blocco, se no completamente mi rubi il diversa. mestiere, mi ero preparato Ma però tre. ti blocco, sì, mi blocco anch'io, Mi ero però è preparato un'anticipazione, volevo dare tre domande sul un'anticipazione. seguire. Ecco, una cosa che mi affascina molto di quest'opera è il fatto che sia stata scritta per tua stessa missione, non da un insigne giurista, da un No, per professore carità. universitario, da un cosiddetto addetto ai lavori necessariamente. E credo che questo sia significativo, non per banalizzare la rilevanza del tema che stiamo trattando, cioè le regole del gioco. Le regole che consacrano i valori fondamentali di una società, di una nazione, ma perché sono temi questi che debbono essere analizzati da tutti. Talvolta, da un punto di vista, diciamo, generazionale, si mette un po' in dubbio il ruolo che la nostra generazione, gli under 40, diciamo, hanno nella nostra società, che sono disinteressati, che sono lontani dalle decisioni e dalle questioni di fondo che riguardano questo paese. Quindi è molto meritorio, dal mio punto di vista, il tuo sforzo intellettuale di ricerche e di approfondimento. Iniziamo a prenderla alla larga per arrivare poi sul tuo nuovo libro e sulla critica al progetto di riforma costituzionale, che è l'oggetto principale del dibattito di questa sera. Correggimi se sbaglio, ma Dimmi. la Costituzione nasce evidentemente da un compromesso politico, come abbiamo visto anche nei precedenti incontri con il professor Galli della Loggia e il professor Dalimonte, fra varie forze politiche. Buttando l'occhio sui primi 15 più o meno articoli della Costituzione, la libertà come principio fondamentale viene trattata al 13° articolo, se non sbaglio. Quindi non è una delle prime esigenze che è stata avvertita. Il compromesso politico che diede la luce a quel testo, al testo che ancora oggi è vigente, è quindi fuori tempo massimo, secondo te, oggi non rappresenta più. È decisamente fuori tempo massimo, perché quello era un paese, era la fotografia di un paese che usciva da una guerra tremenda, da un conflitto mondiale, da una guerra civile interna e necessitava di essere anche un po' rassicurato. Infatti è per questo che la nostra Costituzione ha questo tono anche che è un po' paternalista, il diritto al lavoro, fondata sul lavoro. Che era un paese traumatizzato che aveva bisogno di avere dei riferimenti. Quindi E dico la verità, su questo non c'è assolutamente nulla di male, non metto in dubbio che in quel momento storico fosse necessario questo testo costituzionale. Però giustamente quello era un compromesso fra la forza democristiana, diciamo cattolica, e la forza socialista comunista, con i liberali, mi spiace dirlo, che hanno avuto un'incidenza molto molto modesta purtroppo nel progetto costituzionale. Quindi in quel periodo storico lì andava bene. Però adesso sarebbe necessario aggiornare, perché quel periodo storico lì aveva bisogno soprattutto di un impianto anche di un'architettura costituzionale che garantisse il non ritorno, diciamo, di un pericolo autoritario, di una svolta magari dove c'era una maggioranza che poteva prevaricare anche in Parlamento, imporre, diciamo, e quindi un ritorno al passato. Adesso queste esigenze sono anche superate. Soprattutto anche le esigenze della Costituzione economica, dove viene ribadito tante volte il pubblico davanti al privato, lo Stato che interviene sempre. Quelle sono de degli articoli che obiettivamente non hanno ragione d'essere, e quelli però, per inciso, diciamolo, non necessitano di un'assemblea costituente per essere modificati, visto che Renzi aveva, vorrebbe cambiare quasi 40 articoli. Se almeno avesse cambiato quelli della Costituzione economica, forse sarebbe stato anche meglio, sarebbe stato uno sforzo anche meritorio. Però purtroppo non è stato fatto. Quindi il problema è fondamentalmente che l'impianto disegnato dalla Costituzione attuale è un impianto che dal punto di vista valoriale ed economico è già fallito, perché si trattava sostanzialmente di reggere il paese su un impianto di welfare assistenziale, perché l'impianto di welfare assistenziale del paese nasce dalla Costituzione, dalla necessità di pacificare. Non è un caso che le regioni siano state istituite solo negli anni 70. Negli anni 70 sono state istituite le regioni non perché improvvisamente la classe dirigente abbia detto ma sì, facciamo regionalismo, diventiamo federalisti e cerchiamo di cambiare la fisionomia amministrativa dell'Italia. Semplicemente si necessitava di pacificare di fronte al terrorismo interno e di redistribuire quel poco di spesa pubblica che era rimasto. Era il colpo di coda, possiamo dire, di questa Costituzione qui. Però si è visto poi dove ha portato. Il problema è questa riflessione sulla riforma costituzionale l'aveva fatta molto molto molto prima. E quando è stata fatta, come ad esempio anche nel 2001, è stata fatta molto male. Perché io giustamente qui lo scrivo, io non voglio sostenere la posizione di quelli che dicono che la Costituzione non si tocca mai. Io qui ho scritto che purtroppo o c'è questa parte dell'opinione pubblica che dice che la Costituzione non deve mai essere toccata perché è un testo sacro, tutte quelle cose lì. Però quando purtroppo si decide di dire va bene, facciamo una riforma, viene fatta molto male. E questo è grave, perché comunque nel 2001 sono stati fatti degli errori gravissimi che hanno anzi aggravato la situazione del paese. Quindi purtroppo il quadro non è positivo, purtroppo il Ne quadro. approfitto per evidenziare un aspetto curioso, nel senso che chi oggi si oppone in modo più deciso e feroce al progetto di riforma costituzionale sono proprio quelli che ritengono che la Costituzione sia una Bibbia laica, un testo quasi sacro che non si possa toccare proprio per il periodo storico in cui è nato e per il ruolo indubbiamente importante che ha avuto in quell'epoca. Però c'è anche quindi un fronte del no, a quanto pare, quantomeno rappresentato da te, che non pensa che la Costituzione sia un Testo testo sacro. sacro immodificabile, ma al tempo stesso che non sta apprezzando questo progetto di riforma. Tenuto conto dell'attualità che ha visto la vittoria della Brexit in Inghilterra, ti vorrei fare una domanda di questo tipo. Tu nel tuo libro tratti di due temi che mi sono molto, ai quali tengo molto. Uno è l'illusione della sovranità e l'altro è il federalismo. Sono due temi che sono molto importanti, secondo me, nell'epoca in cui stiamo vivendo, perché oggi come oggi vediamo l'articolazione statale in tutte le sue forme, dal comune fino allo Stato centrale, ma poi dobbiamo fare i conti anche con un'organizzazione sovranazionale che è l'Unione Europea, che ci piaccia o meno, questo è lo stato delle cose. Quindi probabilmente è importante rivedere in quest'ottica anche il ruolo che le varie articolazioni statali debbono avere. La riforma costituzionale, correggimi se sbaglio, prevede una sorta di ritorno al centralismo, nel senso che molte competenze vengono spostate dalle regioni allo Stato Stato. centrale. Posto che, dal mio punto di vista, molto parziale e per quel che può valere, non è poi un danno così grave, tenuto conto del fatto che le regioni sono forse, diciamo, la non migliore espressione del governo statuale. Però tu come interpreti, come giudichi la distribuzione dello Stato sul territorio a livello nazionale oggi, quindi come l'hai trattato nel tuo libro, e come giudichi questo ritorno al centralismo che prevede il referendum costituzionale? Ma è un passo indietro o è un passo in avanti? Ma ritorno al centralismo, guarda, io vi consiglio anche di cercare queste cose su internet perché si trovano degli ottimi contributi di studiosi costituzionalisti. Se voi confrontate la Costituzione com'era, soprattutto nel titolo quinto della Costituzione, prima che venisse modificato nel 2001, e confrontate quel testo lì con quello riformato, come l'ha riformato, vorrebbe riformarlo Matteo Renzi, vedete che è esattamente un ritorno al passato. Quindi non siamo davanti, come si vorrebbe dire, a una rivoluzione copernicana o stiamo facendo delle cose mai viste prima. Semplicemente si è portato il titolo quinto alla condizione pre-2001, quindi a quando sono state create le regioni. In quella circostanza lì vennero dati dei poteri molto blandi alle regioni, era un regionalismo molto debole quello italiano. Amministrativo. Era amministrativo, esattamente. Ed è quello che si sta tentando di fare di nuovo, cioè ricentralizzare e portare l'Italia sulla macchina del tempo e riportarla al passato. Io credo che, appunto per la complessità del periodo storico che stiamo vivendo e che abbiamo avuto anche conferma la settimana scorsa con questa pagina di storia europea che ci ha colto tutti forse un po' di sorpresa, dinanzi a dei meccanismi così complessi, dire semplicemente torniamo al passato, cioè scegliere la strada più breve, dire ricentralizziamo, no? Io non credo che sia il modo giusto di interpretare le dinamiche del presente, soprattutto anche del futuro. Anche perché ricordiamoci sempre il grande paradosso della globalizzazione. La globalizzazione è vero che ha reso gli stati più interdipendenti, però ci ha fatto vedere che comunque a livello locale ci sono delle valorizzazioni da fare se vuoi competere bene sul mercato globale. Allora, la domanda che faccio è questa, che mi pongo è questa. Ma se noi ricentralizziamo tutto, e io qui nel prossimo libro ho citato anche alcuni paper di Luca Antonini, che è un grande studioso del federalismo, che ha collaborato anche con il governo, giustamente Luca Antonini fa notare una cosa, che ricentralizzare vuol dire anche non premiare quelle esperienze regionali virtuose, attenzione, perché non possiamo dire che la Lombardia è uguale alla Calabria. Allora, per quanto male abbia funzionato l'attuale titolo quinto, perché diciamolo non ha funzionato bene, però comunque ci sono delle realtà locali, regionali, che hanno innescato dei meccanismi di bilancio virtuoso. Se noi ci rimettiamo a ricentralizzare, andiamo a togliere anche quel buono che è stato fatto. È un livellare verso il basso. Allora, se noi livelliamo l'Italia verso il basso, non possiamo poi avere la forza di competere, di andare a sbattere i pugni a Bruxelles come deve fare Renzi, che poi ogni volta torna a casa, che poverino l'hanno conciato male. Bisogna innanzitutto migliorare il nostro sistema territoriale. Io per questo che anche, ricolleghiamoci, perché sono un po' in simbiosi con due testi, ricolleghiamoci al libro. Io qui, giustamente, ho riportato un po' sotto la lente di ingrandimento, questo giusto per dare anche un riferimento giustamente all'opinione pubblica, quella ricerca che aveva fatto la Società Geografica Italiana nel 2012-2013, che aveva elaborato, secondo me, un progetto molto molto bello che è disponibile gratuitamente, lo potete cercare su internet, si trova un PDF gratuitamente, e hanno fatto una rivisitazione territoriale amministrativa dell'Italia senza le regioni, abolendo anche le province, però cercando un nuovo ente intermedio di area vasta, andasse giustamente a fare la piramide, comuni, chiamiamoli distretti, ok, 36 distretti, e il livello federale che dovrebbe essere, ma chiamiamolo livello centrale per comodità. Ecco, questo già era uno studio fatto non tracciando i confini a caso, come è stato fatto negli anni 70 per tracciare le attuali regioni, che non hanno alcuna legittimità storica. Quello era un lavoro fatto confrontando dati economici, dati geografici, le reti di impresa, molto importante, e per creare appunto delle zone, quindi degli enti intermedi, che fossero coerenti con le tradizioni territoriali, con l'economia, che avessero una reale rappresentanza della popolazione. E qui voglio fare un'altra riflessione che l'ha fatta anche De Bortoli recentemente. Il nostro è un problema di rappresentanza, anche, attenzione. Perché se stanno dilagando, diciamo, anche i populismi, Il motivo principale è l'assenza della rappresentanza. Lo scollamento tra cittadini e istituzioni lo notiamo proprio parlando di queste cose qui, che capisco che siano cose che giustamente uno dice stasera c'è la partita e mi guardo Polonia-Portogallo, però purtroppo sono queste le cose di cui bisogna parlare. Non sono argomenti facili, non sono argomenti che uno si diverte, però se vogliamo capire un po' di più cosa sta succedendo, dobbiamo partire da queste cose qua e mettere in piedi un progetto senza aver paura di dire ma queste sono cose noiose, però purtroppo di questo bisogna parlare e noi dobbiamo fare una riflessione e dire ma le regioni in Italia servono ancora o sarebbe necessario ripensare a livello territoriale e amministrativo l'Italia anche per creare una nuova architettura istituzionale che garantisca più rappresentanza, più collegamento, meno spesa pubblica, una spesa pubblica molto razionalizzata. Questi sono interrogativi, capisci? Tenuto conto della tua posizione di indubbie critiche, anzi, sicuramente voterai no, se non cambierai idea nei prossimi Ma mesi guarda, per io larghe come ti riflessioni. dicevo prima, io inizialmente quando Renzi presentò il progetto ero convintamente per il sì, lo dico proprio senza problemi. Però giustamente uno cerca di essere coerente, però ovviamente uno a forza di essere coerente magari poi fa la figura del somaro, perché a volte cambiare idea fa anche bene. Allora mi sono andato un attimo a studiare meglio la riforma. E ho detto no, non si può votare sì a una cosa del genere, perché è una cosa invotabile. Una delle principali ragioni che una parte dei vari comitati a sostegno del no adducono, su questo io anticipo che non sono d'accordo, è che c'è il rischio di una deriva autoritaria e antidemocratica dietro questa Costituzione. Al riguardo, tu cosa ne pensi? E se sì, in caso affermativo, No, dove lo guarda, vedi questo io la rischio? prima cosa che scrivo sulla prima pagina del libro è che proprio non intendo assolutamente condividere queste paure della deriva autoritaria, perché ripeto, basta leggere la riforma e non c'è assolutamente nessun pericolo di deriva autoritaria. Quindi non è questo il motivo per votare no. Questo è un motivo populista, estremista e da pensiero breve. Queste sono proprio robe da slogan. Non c'è assolutamente nessun pericolo perché basta prendere in mano la riforma. E i poteri del Presidente del Consiglio sono esattamente gli stessi di prima. Non è stato cambiato nemmeno una virgola sugli articoli 92, 93, 94 e 95. Quindi non c'è Mussolini dopo Renzi. Quindi i Quindi, motivi quali sono? i motivi è la totale incoerenza dell'architettura istituzionale che è stata disegnata. Parliamo del Senato, che è quello che Ma il forse Senato mi viene conoscono. da piangere quando mi nomini il Senato, perché ti giuro, Ridevi troppo prima cioè. infatti. Perché il Senato, capite, è una cosa molto importante dire superiamo il bicameralismo perfetto. E qua siamo tutti d'accordo, perché non credo che poi ci sia qualcuno che mi dica no, il bicameralismo perfetto bisogna tenerlo. Questa è una cosa che è da 40 anni che si dice. Quindi sì, va bene, lo cambiamo. Però non è che perché tu dici l'ho cambiato, allora sono stato bravo, perché Renzi ti dice questa cosa qui. Noi abbiamo fatto il cambiamento perché non ci votate, sì. Sì, però non è che se io ho un rene malato e vado a farmi operare, poi il chirurgo mi asporta il rene sano, però ti ho operato, è stato bravo. No, scusa, non funziona così. Allora, bisogna un attimino vedere. Allora, il Senato è semplicemente la fotocopia del Senato austriaco. Se voi andate a cercare il Senato austriaco su internet, cercate architettura istituzionale dell'Austria, vi trovate davanti il futuro Senato italiano. Ci sono solo alcune piccole differenze per quanto riguarda la selezione dei senatori. Però sono proprio differenze minime. Io vi faccio solo presente che in Austria il Senato austriaco non conta assolutamente nulla. Infatti si sono pentiti di averlo fatto ed è un sistema istituzionale che è palesemente in crisi. Quindi io già mi porrei una domanda e vorrei chiedere alla Boschi, a Renzi, a tutti quelli che hanno lavorato alla sta riforma, ma se lo studio comparato, il diritto comparato, ti dà tanti modelli tra cui scegliere che puoi studiare. Figlio mio, ma perché hai scelto proprio quello che funziona peggio di tutti? Cioè non potevi scegliere un altro, no, quello austriaco. Allora, quello austriaco sostanzialmente è diventato un dopolavoro per i più giovani, diciamo, virgulti dei partiti austriaci. Allora, siccome quella Camera sostanzialmente non ha poteri, non fa nulla, è un soprammobile praticamente, allora adesso hanno detto, vabbè, sentite, ci mandiamo i giovani a fare esperienza perché tanto lì non possono sbagliare, perché non fanno niente. Allora, il Senato italiano è praticamente questa roba qui. Allora, innanzitutto, punto primo, non si sa ancora come verranno selezionati i senatori, perché c'è un grandissimo punto di domanda su come selezionare questi senatori. Quindi già questo, secondo me, non si può andare a votare qualcosa se tu vai a rinnovare un organo costituzionale e non sai neanche come verranno scelti i senatori. Loro ti dicono, abbiamo messo la formuletta che devono essere scelti secondo la preferenza degli elettori, però scelti dai consigli regionali. Però giustamente c'è la postilla che bisognerà mettersi d'accordo in un momento successivo per avere la legge elettorale del Senato. Allora uno dice, beh, allora se passa la riforma come si fa? Si fa che praticamente vengono scelti semplicemente dai consigli regionali. Okay? Semplicemente i consigli regionali scelgono con metodo proporzionale chi mandare tra di loro in Senato. Allora, qua si apre un problema, e questo è un problema grave. Questo Senato nasce per rappresentare gli enti territoriali. Allora, una Camera territoriale che funziona bene, il Senato non è Senato, chiamiamolo Senato tedesco. Lì c'è il modello ambasciatoriale. Cosa vuol dire ambasciatoriale? Che ci sono le delegazioni selezionate dagli esecutivi dei vari Länder tedeschi che mandano i loro rappresentanti a votare secondo l'interesse del Länder. C'è il vincolo di mandato e devono votare tutti quanti la stessa maniera, perché sennò come farebbero a rappresentare gli interessi del Länder? In Italia invece il senatore non ha vincolo di mandato, non deve votare unitariamente la sua delegazione e soprattutto, ma se mettono al primo tentativo, diciamo, di legge elettorale, c'è questo problema di scegliere con metodo proporzionale chi mandare, non fa altro che replicare le lotte partitiche anche nel Senato. Però se tu fai un Senato che vuoi rappresentare gli enti territoriali, quella Camera lì non deve rappresentare il volere dei partiti e quindi diventare una fotocopia dei litigi che si fanno alla Camera dei Deputati. Se tu lì vuoi rappresentare gli enti territoriali, devi rappresentare gli interessi territoriali, perché quello allora vuol dire rappresentanza degli interessi territoriali, degli enti territoriali. Così funziona una buona Camera, che è come funzionano sostanzialmente le Camere nei sistemi federali. Ok? Quindi un Senato in questa maniera qui è totalmente incoerente, non servirà assolutamente a nulla, servirà solo a rendere ancora più debole la nostra architettura istituzionale. Mi dispiace che non ci sia il professor Dallimonte, perché anche per una cosa di cultura personale, io a quelli che dicono che questa riforma porterà stabilità, io vorrei chiedere, spiegatemi come può un Senato così portare stabilità all'interno di un'architettura istituzionale. Quando già in Austria, non dico che sono al collasso istituzionale, però hanno dei seri problemi a far funzionare la macchina. Ma allora, la domanda di prima, perché devi copiare da una macchina che funziona male? Posso dare risposta? Sì, sì, volentieri, perché sono quesiti non che sono da Boschi. No, no, diciamo vabbè, si vede un po', Sì, non sono Boschi, in senso provocatorio, avendo ascoltato come altri, no? Provo a rispondere, ma nel senso di sollecitare. E se la risposta fosse, che potrebbe anche essere così, anzi io credo che sia in parte così, non sto difendendola. No, per carità. Di due tipi. Caro mio, scusa, o si faceva così o non si faceva niente, prima risposta. È molto provocatoria, no? Però credo che abbia un fondo di verità. O è così, o caro mio, passiamo altri 30 anni a contarcela, come hanno passato 30 anni. Questa è una provocazione, no? Secondo, in ogni caso, quello che disegna questa riforma costituzionale con tutti i difetti che giustamente, no? È comunque peggio di quello che abbiamo adesso? Non so se mi sono spiegato. Comunque non è qualcosa di, anche se è un passettino un po' di sbiego, non è comunque meglio di quello che mi fa piacere, poi dirò qualcosa di quello che c'è adesso. Due domande provocatorie, ovviamente. Ma ti rispondo di no a tutte e due, perché secondo me sono. Capisco l'obiezione, però, perché me l'hanno anche già fatta anche altri amici, così quando. Però come credo che sia. È sempre frutto di compromesso, anche le riforme costituzionali. Ma certamente, però, allora, a me può star bene, fatti anche lo scritto, non esiste la riforma perfetta. E qua siamo tutti d'accordo. Però, per il momento che sta vivendo anche il paese, che è un momento difficile, questa roba qui non serve a niente. Secondo me peggiora la situazione. Perché noi dovremmo andare, proprio a livello anche di enti locali, noi dovremmo dire, allora, cari enti locali, dovete responsabilizzarvi. Non possiamo continuare a elargire soldi, soldi, soldi, soldi, soldi a vuoto. Quindi, io anche per questo che dico, ma non era mica meglio eventualmente insistere sull'unica cosa buona che c'era nell'attuale titolo quinto, che era l'articolo 116, che proponeva di differenziare chi, quelle regioni che chiedessero più potere, più... Neanche, anche quello sono riusciti a peggiorare. Allora, capisci? Non è una questione di dire è meglio questo, è meglio quello, perché il problema è che il paziente Italia è grave. Quindi, se tu gli dai un'aspirina, questa forma qua è un'aspirina, ma è un'aspirina che, però, ti dico la verità, ha grandi effetti collaterali, perché un'aspirina magari ti fa star bene, però magari ti crea problemi, controindicazioni, foglietto illustrativo. Questo secondo me poi ti tocca leggere il foglietto illustrativo, perché secondo me ci saranno grandi controindicazioni, e secondo me con questa riforma qua si rischia veramente il caos istituzionale, perché io ti ripeto, la situazione del Senato, a mio avviso, sarà un caos. Se passa questa riforma qua, il Senato italiano sarà un caos, e secondo me dopo, tra 5 anni, diremo ma non era mica il caso di abolirlo, bisogna fare un'altra riforma. Infatti io qua lo dico, secondo me tutti sono d'accordo. Abolito, no? allora ti posso dire una cosa, io infatti qua no, lo scrivo. No, ma ti dico, allora, se Renzi voleva essere veramente coerente con quello che bisognava fare, poteva forse dire facciamo il monocameralismo, forse non c'è la maggioranza per approvare. No, poi posso intervenire, perché adesso già anch'io sono capace di fare la Costituzione migliore della Terra, secondo me, se posso decidere io, ma se devo farmela votare, non me la votano, devo fare un compromesso, cioè come l'hanno fatta all'epoca, come devo fare adesso. Non penso che questa sia la riforma che doveva fare, è quello che è riuscito a fare. Cioè lei provi a far votare il senatore, l'abolizione del Senato, cura, ma io non sono ancora, allora vuole, no, cioè adesso voglio dire, sì, ma, no, ma io non sono favorevole all'abolizione del Senato. Io farei senza Senato, farei totalmente senza Senato. Io no, assolutamente. Vi faccio, però, una proposta, scusa, no, faccio una proposta. No, è possibile, le faccio una proposta, è possibilissimo. 5 minuti d'orologio, poi mi taccio 20 minuti prima, facciamo un'ora intera di dibattito, se siete d'accordo. Così, sì, giusto per non stuprare il mio ruolo, se no andrei a casa un po' scontento. No? Grazie mille. Io devo dare una mano a Federico. Un secondo solo, no, perché sono venuti fuori due spunti che non c'è Dalimonti, faccio allora l'avvocato di Dalimonti, gratis, come lo faccio il martedì pomeriggio. Allora, perché è uscito un dibattito molto importante, secondo me, tra voi due. Tu dici, se viene approvata è il caos. Dalimonte, non senza conseguenze negative la scorsa volta, lo ha rifatto porta a porta il giorno dopo, impunemente. È recidivo. Ha detto, se non viene approvata la riforma, che attenzione, votando al referendum voteremo un pacchetto di riforme, e legge elettorale e riforma costituzionale, sarà il caos, perché avremo... Il caos perché avremo una legge elettorale che disciplinerà l'elezione di una Camera e una diversa che ne disciplinerà nell'altra Camera. Quindi lui ha una tesi completamente antitetica rispetto alla tua. Quindi tu dici c'è il caos se la cambiamo. Lui mi dice c'è il caos se non la cambiamo. Perché c'è il caos secondo te se la andiamo a cambiare? Dove si manifesta il caos a livello istituzionale? Perché non si riuscirà a far funzionare il Senato come è stato... A legiferare, dice, quindi... Come è stato pensato? Perché allora il Senato funziona bene nei sistemi federali... No, prego, signora. Prego. No, sono io che sto contestando. Dica, no, io non sono d'accordo, perché si è partito a rifare la Costituzione perché c'era la difficoltà che una stessa legge dovesse continuare a passare da una Camera all'altra, perché non si riesce. E passando da una Camera all'altra, tante volte la Camera successiva rimetteva le stesse cose che l'altra aveva tolto. Quindi in ogni caso questo è il caos, perché prima di legiferare ci passa una marea di tempo, e tante volte delle leggi sono state dichiarate peggiorative da quelle iniziali, per questo continuo ballottaggio, certo, dalla parte dell'altra. Sono perfettamente d'accordo con lei. Okay. Questo per quanto riguarda il Senato è stato abolito, nel senso che non si può più fare questa cosa qui, nel senso che le leggi ordinarie vengono decise solo ed esclusivamente dalla Camera. I senatori possono eventualmente, cioè possono, se vogliono, eventualmente, perché c'è il passaggio anche della documentazione, possono fare delle interpellanze, possono presentare degli emendamenti, non possono votare, però possono, diciamo, dire la loro, specialmente per quanto riguarda le leggi che riguardano le regioni. Okay? Il dibattito rimane aperto. Il veto del Senato, per quanto riguarda il Senato, in più c'è un rapporto diretto tra i senatori che rappresentano le regioni e il governo, perché possono fare delle interpellanze i senatori, e in ogni caso il Senato, la cosa importante del Senato non è quella di legiferare quello che la Camera, cioè di votare insieme con la Camera per le leggi ordinarie, ma è quello di votare per le leggi straordinarie e per tutte le cose che fanno riferimento agli incarichi che ci sono nell'elezione del Presidente della Repubblica. Sì, ma io sono perfettamente d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei, sinceramente. Da come aveva parlato non mi sembrava che allora, fosse no, chiaro. Allora forse non mi sono spiegato. Allora, signora, il discorso è che il senatore non è che sono delle marionette che vanno lì a fare la figurina e basta. No, allora. Devono votare le leggi che sono fondamentali per lo Stato ed eleggere le persone con degli incarichi fondamentali per lo Stato. Ok. Poi, mi scusa, che a questo punto glielo dico subito, perché lei c'era tanto con la prima parte della Costituzione. Sì. Allora, io le dico che una persona che è a casa, che lavora, la cosa principale che gli interessa non sono altri principi, è quello di avere un lavoro. E lo Stato deve e ha il dovere soprattutto di creare un'armonia all'interno di tutte le varie economie per fare in modo che si crei il lavoro, e questa è la cosa fondamentale dei cittadini italiani. Quindi mettendo la pressione fiscale sugli imprenditori al 70%. Purtroppo la signora non è in minoranza nel paese, quindi è più fortunata di noi. Saranno anche quelli che pagheranno le tasse, però chi paga più le tasse sono i dipendenti, e sono anche i dipendenti che poi dopo vanno a acquistare i prodotti che vengono prodotti. Mi scusi signora, posso intervenire? Scusi, posso intervenire, perché questa è una sua opinione politica che è legittima, è legittima. Ma io non contesto mica. No, no, è politica perché... Non è personale e quindi ha un ritorno politico. Penso che fiscali ha poco fortuna. No, però se tutti facciamo così, allora non si fa più niente, perché non si parla più. La signora ha voluto esprimere la sua. No, molto legittimo. Adesso mi parlo. Molto legittimo, molto capire quello che deve essere affrontato. Indubbiamente, però signore, molto chiara, e devo dire che fortunatamente per lei in maggioranza in questo paese, però adesso per seguire un minimo di coerenza nello svolgimento del dibattito, grazie, credo che tutti debbano avere la possibilità, alzando le mani, di esprimere il loro parere, come sempre è stato concesso nei due incontri precedenti, anche a lei già, quindi le chiederei solo di rispettare un minimo di regole, perché mi fa piacere farle rispettare, grazie. Ecco, diciamo così che mi taccio, perché ho visto Patrizia che voleva fare una domanda e le vorrei cedere la parola. Carlo idem, e poi ho visto che anche là dietro c'è qualcuno. No, poi c'è una domanda che lo faccio tribunale in fondo, allora, così cederei la parola a Patrizia, sindaco di Gragnano, un comune della provincia di Piacenza. Ma lei ha finito, perché non padrone di casa lo faccio io stasera, lascia fare. Che faccio. Io lascio parlare voi. Se posso, poi io mi taccio poco di più. No, siccome è molto stimolante, ringraziamo, ci sarà modo di parlare tutti, spero, proprio tutti. Se possiamo parlare tutti se facciamo domande, no? Non reazioni. Io per primo, no? Domande a cui anche provocatore. Perché non ci si è fatto la barba. Così si deve fare domanda, no? Ma domande in modo da guadagnare tempo, solo quello, no? In modo da dare a tutti, proprio tutti, io spero che parlino tutti, no? La possibilità di fare domande. Io faccio fatica a fare domande, nel senso che l'altra volta con Dalimonte non sono intervenuto perché ero d'accordo su tutto, adesso invece non sono d'accordo praticamente su niente. È il gioco delle parti, signora. Beh, lo dico con rispetto. Ma ci mancherebbe, siamo un paese libero. Ci prendiamo un merito, con Alberto e gli altri dell'associazione ci eravamo impegnati davanti alla città a fare non la solita minestra che i partiti un mese prima del voto fanno. Ci siamo detti, facciamo un servizio a questa città, perché sicuramente lo faranno in pochi. Organizziamo 3 incontri di approfondimento, anche di dibattito. Certo. Galli della Loggia, sfido chiunque a dire se era favorevole o contrario per come è esposto la relazione. Dalimonte, sfido chiunque a dire che non fosse favorevole. Vi sfido tutti, a Briscola, dove volete, a dire che lui sia favorevole. Quindi credo che il nostro obiettivo civico e laico l'abbiamo portato a casa. Quindi ora, il dibattito è aperto, facciamolo con un minimo di regole. No, dicevo, domande, faccio fatica a fare domande, nel senso che mi viene più facile anche interloquire, nel senso magari contestare quello che hai detto. Allora, intanto anch'io dico che non è la riforma, cioè per quelle che sono le mie idee, come l'avrei fatta io se avessi potuto, non è quella ideale, quindi lo premetto che non penso che questa sia la riforma costituzionale ideale, però penso che fosse quella possibile in questo momento, cioè quella che nelle condizioni date è consentito attivare, e secondo me è comunque più utile rispetto a quella che abbiamo oggi. Per il fatto che una delle ragioni, credo proprio, che dell'impasse in cui si trova il nostro paese è proprio l'ingovernabilità. Quindi io sono dell'idea, come lei ha detto, che non c'è più pericolo in questo paese di dittature, cose. Ecco, di dittature varie. Quindi sono disponibile a correre il rischio che ci sia chiunque altro a governare. Credo che chi sia stato eletto deve avere la possibilità di governare e quindi di creare le condizioni per avere in un certo periodo di tempo la possibilità di realizzare gli obiettivi che si era posto, cercando di imitare se possibile il più possibile la riforma quella dei comuni, che è quella che secondo me ha funzionato molto bene, è una delle poche cose buone che sono state fatte nelle varie riforme. Per cui uno ha 5 anni davanti, in 5 anni si può, non tutto, ma si può cominciare a costruire qualcosa, e meno non è possibile. Siamo un paese litigiosissimo, se le regole che ci diamo non ci costringono a comportarci in un certo modo, noi non siamo capaci, per il bene pubblico, per il bene del paese, per il bene della comunità, di comportarci correttamente. Cioè. Quindi abbiamo bisogno di regole che ci costringano. Secondo me in questo senso la riforma funziona, nel senso che la riforma del Senato, ad esempio, che non mi piace particolarmente, capisco che era impossibile abolirla perché si sono sentite tantissime critiche, te le devi fare, è come dire appunto al tuo tacchino di suicidarsi per il giorno di Natale, quindi bisogna in sostanza cercare di arrivare dove si può. Però nello stesso tempo mi pare di poter dire che non rende più difficile la situazione, anzi, perché appunto, come si diceva prima, il Senato sul 90% delle leggi che devono essere emanate non ha parola, nel senso può sollevare una questione, ma la Camera non è obbligata a tener conto del parere del Senato, quindi ha una possibilità di fare segnalazioni, ma quindi la Camera può andare via più speditamente, quindi sicuramente una maggiore azione da parte del governo ci potrà essere. Poi ci sono tante cose da dire, ma poi lascio spazio agli altri, dico quello che mi viene in mente di più. Il discorso dei principi invece io ritengo una visione diversa dalla sua, cioè io ritengo che i principi siano esattamente quelli, veramente secondo me i principi così come sono stati scritti e così come sono elencati sono ancora attuali, anzi ancora di più di prima direi. Il problema qual è? È che la nostra Costituzione, cioè come tutte le Costituzioni, non è una norma, non contiene norme precettive ma programmatiche, è l'attuazione che è stata data a questi principi secondo me che è sbagliata. Non i principi medesimi, ma come sono stati applicati per interessi vari che hanno prevalso. E ho anche da dire qualcosa sulla Corte Costituzionale, perché non bisogna dimenticare che le leggi passano al vaglio anche della Corte Costituzionale quando ci sono i ricorsi e quant'altro, e in più di un'occasione, a mio parere, la Corte Costituzionale ha interpretato i principi in un determinato modo che io non trovo sempre condivisibile, perché in effetti è un'interpretazione del principio, e quindi essendo un'interpretazione ci sarà un'interpretazione prevalente, un'opinione prevalente che è andata avanti nel tempo. Potrebbe anche essere che certe interpretazioni delle norme, dei principi, possono anche modificarsi nel tempo. Quindi io ritengo che certi legami, certi vincoli derivino da interpretazioni che hanno prevalso. valso, non per il principio in sé, perché anche i principi che riguardano l'economia, là dove mi si dice che l'iniziativa economica è privata e pubblica, semplicemente deve svolgersi con una funzione sociale, io non ci trovo un concetto sbagliato, perché è giusto che l'imprenditore privato non mette in pericolo la sicurezza dei lavoratori, non sfrutti i lavoratori, non inquini l'ambiente, non danneggi la collettività. Bisogna vedere come poi tu questi principi li attui. Se tu sei in un paese dove poi le regioni, le province, i comuni, gli enti di nomine Dio ti fanno 3.500 regole, certo che tu senti il peso del pubblico e della statualità, cioè dello Stato. Dello Stato, no? Non è il principio in sé che è sbagliato, è tu che l'hai attuato in quella maniera lì, perché per fare una pratica non è mica detto che tu debba andare in 50.000 enti, eh? Questo lo hanno stabilito le leggi successive, lo ha stabilito la burocrazia che vive e che in questo momento, in questo modo si mantiene e che ha un potere enorme, a partire dai funzionari, perché io sfido, secondo me, diciamo, diventare chiunque che sia qua, diventare parlamentare, andare in Parlamento con una idea precisa per far passare una legge e vedere se all'ultimo momento magari quella legge lì, il funzionario XY non ci mette dentro la virgola roba per cambiarla, perché arrivano gli input di tutto il mondo. Quindi, cioè, quello che volevo dire, e faccio breve perché lascio parlare gli altri, attenzione a non fare confusione tra i principi e l'applicazione che è stata data, all'attuazione che è stata data, che non dipende dai principi e non dipende dai padri costituzionali o dall'idea che essi avevano, che secondo me è ancora attualissima, ma dipende da chi è venuto dopo e che purtroppo ha una qualità culturale, intellettuale, molto, molto, molto, molto meno elevata di chi l'ha pensata la Costituzione. Su questo sono perfettamente d'accordo. Io darei diritto di replica al relatore, sì, per poi dare la parola agli altri. Non approfondisco, non replico su questa considerazione, che rispetto, però non condivido, perché secondo me è la burocrazia e l'apparato statale che si è legittimato su questa Costituzione, non il contrario. Però, ripeto, questi sono punti di vista, quindi non c'è nulla di male. E un'altra osservazione sul fatto che anche le altre Costituzioni sono programmatiche, invece no. Perché se lei legge la Costituzione tedesca o la Costituzione francese, o la Costituzione spagnola, non hanno assolutamente niente di tutta la verbosità e la retorica che hanno la nostra Costituzione. La nostra Costituzione è un unicum costituzionale proprio per questo motivo qui, perché proprio in virtù del periodo storico in cui è nata, è stato un po' un programma permanente da socialismo. Esatto, quindi questa è stata una... che può piacere o non piacere, diciamo, quindi non c'è niente di male. Io volevo un attimo chiedere, proprio anche per curiosità, volevo capire il discorso della governabilità e della stabilità. Perché volevo capire una cosa. Questa sensazione di maggiore governabilità e di maggiore stabilità le deriva pensando, e dopo diciamo leggendo la riforma, o pensando alla riforma più l'Italicum? Beh, certamente riforma Italicum sono un pacchetto, l'Italicum è fondamentale anche per dare... Allora, il discorso della stabilità è un po' complesso, e anche della governabilità. Io vorrei fare un attimo una piccola excursus, diciamo, storico, perché è dal 93 che noi stiamo cercando la legge elettorale magica. Ci abbiamo provato col Mattarellum, col Porcellum e via dicendo. Adesso è arrivato questo Italicum che pare che dovrebbe essere, come ha detto Dalimonte, da quello che mi dicevi anche tu prima, la manna dal cielo, perché dovrebbe garantire la stabilità. Allora, nel 2006, quando abbiamo votato con il Porcellum la prima volta, mi sembra, forse 2006, adesso non mi ricordo, 2006, allora, noi avevamo raggiunto la tanto agognata svolta maggioritaria, perché sono andati in Parlamento solo 5 partiti e c'erano due poli ben chiari. Ha vinto Berlusconi. 2008 era. 2006 era una situazione grottesca. È stata grottesca, bravo, hai ragione. Il quarto governo Berlusconi ha ottenuto la bellezza di 343 seggi, che sono 3 seggi in più di quelli che garantirebbe l'Italicum. Però non è andata a finire bene quell'esperienza di governo lì. Perché? Perché ci sono state le solite lotte intestine e anche in quel caso lì la maggioranza, sebbene avesse 343 seggi, si è segreto l'altro. Perché era una coalizione. Coalizione formata da 3 partiti, però attenzione. C'era un partito che era nettamente l'azionista di maggioranza, la Lega di contorno. Sì, quello non voglio fare del Dalimonte. No, no, ho capito. No, no, ma vedi, la tua osservazione è corretta, la tua osservazione della coalizione è corretta, perché qui ti voleva arrivare. Ecco lì che ti volevo portare io. Settembre cambia tutto. Ecco qui. Allora, i fautori dell'Italia, intanto faccio notare che avere 343 seggi quella volta non è servito a niente. Quindi non è assolutamente detto che perché il PD o il Movimento 5 Stelle magari il prossimo giro prendono 340 seggi, allora siamo sicuri che la legislatura dura 5 anni. Mi pare che il PD abbia qualche problemino interno, che non lo mettono proprio a riparo da 5 anni di legislatura sullo scivolo. Mi pare che anche il Movimento 5 Stelle, quando se dovesse andare a governare questo paese, io non credo che proprio sarà un po' più un ballo di carnevale. Quindi, allora, quelli dell'Italicum ti dicono che c'è il premio di coalizione. Però faccio presente che purtroppo per Dalimonte è cambiata la situazione, cioè, politica. Premio la lista. Premio la lista, il suo progetto, sì, di premio la lista. Il problema è che adesso sono cambiate le condizioni politiche e per settembre hanno già messo a calendarizzato per la Camera la discussione di modifiche dell'Italicum. Tra le modifiche più papabili c'è il premio alla coalizione. E quindi si tornerebbe a una situazione come quella del Porcellum. Allora, la governabilità e la stabilità che darebbe questa riforma costituzionale non deriva dalla riforma costituzionale, deriva dall'Italicum, che è stato presentato come la legge elettorale definitiva. Allora, il maggioritario, che è il famoso modello Westminster, che è quello anglosassone, funziona nei paesi anglosassoni da sempre, perché lì ci sono due partiti. Allora, quando c'è una situazione storica legittimata, secolare, di due partiti, è logico che il maggioritario funziona bene, ma se tu prendi delle regole anglosassoni del maggioritario e continui a insistere a trapiantarle in Italia, dove abbiamo una frammentazione che è esasperata e secondo me l'avremo ancora di più, perché la scissione del PD è sempre di lì che pare che da un momento all'altro, la centrodestra caliamo un velo pietoso che non ne parliamo neanche che è meglio. Io non so quanto valga la pena insistere questa lotteria delle leggi elettorali sperando che esca il numero giusto. Oddio, abbiamo fatto la legge elettorale giusta. Allora, quello che vi voglio dire è che se vogliamo governabilità e stabilità bisognava inserire delle norme che garantissero governabilità e stabilità in questa riforma. Io sono d'accordissimo con lei nel dire che purtroppo è stato fatto quello che si poteva fare. Però sul Senato almeno quel cavolo di vincolo di mandato si poteva mettere. L'hanno detto tutti i costituzionalisti del sì, del no, del forse, perché fare una Camera di rappresentanza territoriale senza mettere il vincolo di mandato vuol dire non aver fatto una Camera di rappresentanza degli enti territoriali. È quello che caratterizza quel tipo di Camera e quel tipo di rappresentanza. Se tu non metti quella clausola lì, è come se non avessi fatto nulla. E poi dico, costava tanto mettere qualche piccola correzione nei poteri del Premier, fare il famoso istituto della sfiducia costruttiva. Questo io non voglio dire nulla, io capisco che i compromessi e tutto quanto, però se questo è il prodotto finale, tu devi giudicare il prodotto finale, non le intenzioni, e purtroppo il prodotto finale è scadente. Ma anche perché io sposterei così è il mio punto di vista, visto che come cittadini ci stiamo confrontando adesso in vista del referendum, quando dovremmo votare dovremmo dire cosa noi pensiamo di questo di questa progetto. Riforma su questo, perché poi nelle argomentazioni politiche invece nel dare un giudizio su Renzi, ecco, quello magari potrebbe a essere me, importante, guarda. Cioè dire che lui presenta oggi questo, no, se io fossi, no, io voglio giudicare anche quello, perché confido a giorni alterni sul fatto che possa dare una svolta in senso migliorativo. Dal suo punto di vista, nel suo partito, ha fatto quello che altrove non è stato fatto per mille ragioni. Però quando da cittadino giudico il politico, allora magari mi pongo nella condizione di giudicare come lui ha gestito il dibattito e il compromesso politico. Ma quando andrò a votare al referendum valuterò come questo progetto, al mio modo umilissimo di vederla, sia migliorativo o peggiorativo, lo butterò molto in cacciata. Se avevi finito vorrei dare la parola a Carlo. Sì, sì. Grazie. Tanto grazie per sintetica relazione, ma molto ricca anche di informazione oltre che di stimoli per il dibattito. Cosa dire? Vabbè, se non altro inizio, visto che si è molto calcistici in Italia, bisogna prima dichiarare in che squadra giochi, e tanto dire, se non altro mi trovo d'accordo con te sul no a questa riforma, che mi sembra molto raffazzonata per tanti aspetti. D'altra parte, come si diceva prima, la qualità del paese, della classe dirigente che ha fatto questa Costituzione è pensare appunto a quella che è la classe dirigente attuale già dovrebbe mettere una serie di dubbi, tanto è che quando c'è stata la precedente ipotesi di riforma, io ero stato tra quelli che era stato per il no, dicendo che comunque la Costituzione, va bene, questo framework attorno a cui questo paese si dà dei limiti, si dà degli indirizzi ideali, ed è una cosa, e si dà un'operatività, perché poi queste Costituzioni più che limiti ultimamente sono diventate dei manuali di operatività. Io non ho una cultura giuridica, però cerco di capire e arrivare al dunque delle cose. Allora, come giudico questo tipo di riforma? Di riforma, io sono stanco anche di sentire questa parola, scusate. Questo ennesimo cambiamento della Costituzione, delle regole costituzionali. Sicuramente non va nel senso in cui io, da vecchio liberale, auspico, quindi un, cioè, quando voi avete una grande fiducia dello Stato e nelle legiferazioni dello Stato, questo Stato fa tante di quelle leggi che fanno tanti di quei danni, perché più se ne fanno e meno se ne ha la capacità di controllare, e poi più la burocrazia quindi può tranquillamente operare e trasformarli in quegli incubi poi per gli amministratori, ad esempio, oltre che per i comuni cittadini. C'è una direzione che dice che qual è il problema di sto paese? Che c'è poco governo, c'è troppa autonomia dei territori, cioè è esattamente una fotografia che non riconosco. Questo paese ha troppo governo, poi vediamo cosa vuol dire governabilità, che è un'altra cosa. Questo paese ha troppo governo e qui si sta dicendo bisogna fare di più, dobbiamo dare modo a questo governo di fare di più perché non fa abbastanza. Questo Parlamento di legiferare di più perché non si legifera abbastanza e tra parentesi, e togliere autonomia ai territori perché ne hanno troppa. Confondendo una cosa, che è il fatto che si è data un'autonomia spesso senza la responsabilità, che è un altro discorso. Invece qui si ammazza il bambino, cioè il solito acqua sporca bambino. Completiamo le cose fatte, come diceva nell'articolo, andiamo in direzione di rafforzare la responsabilità dei territori, perché ci sono territori che hanno comunque delle esperienze di successo, altri meno, è chiaro, un problema di classi dirigenti, ma noi pensiamo che centralizzando nel baraccone romano ulteriormente le cose andiamo in una direzione che solleva questo paese. Io questa agonia di questo paese, perché questa è un'agonia, una continua andare avanti e indietro, centralizzare, senza mai compiutamente poi portare avanti un'esperienza, appunto, hai dato dell'autonomia, completala con la responsabilità, perché se non dai la responsabilità succede come a Roma, che adesso ci accolleranno i 10 miliardi di debiti che ci hanno. E allora che senso ha tutto questo? Non mi ci ritrovo, quindi prima di tutto come messaggio ideologico che dà. Questo paese è ammalato di Stato e stiamo dicendo che ci vuole più Stato per risolvere i problemi di questo paese. È sbagliato. Questo è il primo elemento fondamentale che è sbagliato. Se poi entriamo nell'operatività, qui mi rimetto i giudizi, poi cioè, cosa vuol dire governabilità? Qual è il problema di questo paese? È che questo paese deve legiferare, anzi centralizzando peggio, su un miliardo di cose, dove vuole arrivare, dove si è inventato che cosa? L'omicidio stradale. Sì, giusto? Cioè, siamo... No, ma non è una battuta, cioè il tempo per legiferare, abbiamo il problema dei... Si è riusciti a fare anche questa cosa, quindi non è un problema che non... Ci sono degli aggiustamenti, è chiaro che poi gli aggiustamenti vanno fatti, ma in qualsiasi cosa, questo è il vero riformismo. Il vero riformismo è in 60 anni aver ritoccato, andare a ritoccare le cose dove si vedeva palesemente la debolezza. Io parlo da decenni di sfiducia costruttiva. Non si può fare qui. Allora ci inventiamo un sistema che... Io ho guardato qualcosa della legge Acerbo, mi sembrava un po' più semplice, se non altro. Se non altro c'era una cosa che era molto più chiara, che là c'era un partito fascista che aveva in mano la forza ed era in grado di imporre una volontà politica. Qua si fanno le riforme con dei partiti che sono allo sfascio, qua lasciatemelo dire, senza, con dei partiti sperando che ci siano le riforme elettorali e costituzionali a costituire una forza politica che non c'è, perché sono delle cricche, delle bande che si disintegrano appena le metti al potere. È una cosa veramente penosa, io l'ho trovata, questo tentativo di vendere la novità. Dobbiamo cambiare, sai cosa c'era? Ho lavorato nel settore pubblico come consulente esterno. Ogni tanto c'era, dobbiamo dare un segnale. Ecco, mi sembra di vedere la stessa logica. Dobbiamo dare un segnale. È sbagliato. Cioè, una classe politica responsabile e seria affrontava in modo serio dei problemi. Che, allora, abbiamo avuto il Mattarellum. Era un bel sistema elettorale, sì, era migliorabile, se si prova, cioè, com'è che era quello? Il Porcellum arriva. Cioè, è un continuo rilanciare, ma per confondere le acque, un sistema che funziona bene, come si dice, ha la capacità di migliorare cambiando piccole cose. Ma io non so, allora, ma assolutamente, cioè, scusa, Carlo, torniamo Carlo al problema di quello che era stato la precedente. Scusa Carlo, ma interessantissimo, immagino che repliche ne avrei poche perché sentivo che Nuivi ti si è slogato una vertebra. Sì. C'è qualche altro intervento o domanda magari? Marzia, scusa, subito dopo. Domande un po' tecniche, si deve dichiarare in che squadra gioco o ancora non gioco? Sei panchina. Questo è bellissimo perché... Cioè sono neutra nel senso che sto cercando di farmi... questo è bello, questa è una allora, cosa bella. Esattamente, lei prima ha parlato di un possibile caos se passasse questa riforma. Le chiedo tecnicamente in quali punti del disegno intravede questo pericolo. Cioè, allora, è molto semplice. Non sono stati inseriti alcuni correttivi. Come diceva Carlo, la sfiducia costruttiva, io ne posso dirtene altri, ad esempio potenziare i poteri del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio italiano non può fare niente, non può revocare i ministri, non può chiedere lo scioglimento delle Camere, non può fare niente. Okay. Questi poteri qua non sono stati toccati. Se tu invece davi più poteri al Presidente del Consiglio, c'era più stabilità. Okay. Se poi abbinavi questo potenziamento dei poteri alla sfiducia costruttiva, creavi un modello parlamentare che tecnicamente si chiama razionalizzato, che è come quello tedesco. Ci sarà un motivo perché in Germania è caduto un governo di 60 anni. Ecco, bastava semplicemente inserire dei correttivi in Costituzione in modo tale da garantire una continuità di governo anche in caso di crisi. Ti faccio un esempio, la crisi tra Berlusconi e Fini, che è andata avanti un anno e mezzo che non ne potevamo più nessuno. Se ci fosse stata la sfiducia costruttiva, si sarebbe potuto eventualmente fare un cambio con Silvio Berlusconi, con un altro premier, se ce la facevano a farlo. Perché ad esempio io ti vorrei citare un caso che è accaduto in Germania nel, se trovo il foglio, questa è storia, giustamente, ah sì, eccolo qua, nel 1972 la Repubblica Federale Tedesca avevano provato a far cadere il cancelliere Brandt, ok? Però la sfiducia costruttiva, cioè sostituire Brandt con un'altra maggioranza parlamentare, che era quello che dovevano fare quella volta Fini con Berlusconi, è fallito per 2 voti. Allora sai cosa ha fatto il cancelliere Brandt, che disponeva del potere di scioglimento delle Camere? È andato allo scioglimento lo stesso delle Camere, sebbene avesse vinto, sostanzialmente fosse rimasto il cancelliere, perché voleva la prova di forza. Ha detto, voi non mi avete fatto fuori, vi porto io allora alle urne. Che ha detto, voglio farmi praticamente rieleggere dai tedeschi. E i tedeschi hanno premiato questa prova di forza e l'hanno rieletto in maniera schiacciante. Questi sono un po' dei giochi della politica, ok? Però sono giochi della politica che in un sistema parlamentare servono. Poi ti dico un'altra cosa, noi stiamo tentando, come ho detto lui prima, di cambiare la forma di governo parlamentare attraverso le leggi elettorali, ed è il 93 che ci proviamo. Questa cosa qua non si farà mai, perché l'unica cosa che se vuoi ti dà veramente stabilità è un sistema semipresidenziale. Questo ci vuole in Italia, un sistema semipresidenziale, come in Francia, abbinato possibilmente a tutti i vari pesi e contrappesi istituzionali, perché ovviamente non è che possiamo fare come in Francia e eleggiamo un Presidente della Repubblica che magari ha anche il potere di indire il referendum, perché allora lì sì che c'è il rischio di svolta un po' autoritaria. Però se vuoi stabilità bisogna cambiare la forma di governo. Se ti vuoi tenere quella attuale bisogna mettere i correttivi come hanno fatto in Germania. perché così non si può fare. Quindi questa era per rispondere al tuo primo quesito del perché. Ti aggiungo comunque che sebbene sia stato superato il bicameralismo perfetto, come diceva prima la signora, i poteri che sono stati dati al Senato sono molto molto confusi, nel senso che il Senato, come diceva la signora, potrà comunque intervenire in alcune leggi, però attenzione, visto che il Senato rappresenta gli enti territoriali, sia anche nelle leggi che riguardano le regioni, la Camera potrà superare a maggioranza assoluta le votazioni del Senato. Quindi capisci anche tu che c'è uno squilibrio. Il Senato nasce depotenziato, però se tu vuoi rappresentare gli enti territoriali devi dargli dei poteri giusti, corretti, non dargli dei poteri che la Camera può tranquillamente superare, perché allora cosa serve il Senato? Capisci? Questo è il caos non è la cioè, perché a volte anche questo termine viene un po' frainteso, non è che succede che cade tutto, crolla l'architettura, semplicemente è come una macchina con motore ingolfato. Una macchina con motore ingolfato non può far bene i chilometri che deve fare, capisci? Questa è. Seconda qual era? Il quesito è un po' più provocativo, non ho ancora detto. E si collega alla risposta, nel senso che, allora, giustamente lei ha sottolineato la necessità, l'eventuale necessità di introdurre il vincolo di mandato per il Senato che rappresenta sì. Le regioni. Ma visti tutti i discorsi che giustamente avete fatto lei e Carlo poc'anzi, non è forse che la vera modifica costituzionale che dovremmo fare per avere una governabilità e introdurre il vincolo di mandato anche alla Camera? No, attenzione, perché qua andiamo su un terreno che rischia lo svenimento. No, allora, a parte le battute. Il vincolo di mandato è un'eredità della rivoluzione francese, con tutto quello che comporta. Non possiamo introdurre il vincolo di mandato in una camera politica, capisci? Perché altrimenti non si sarebbe più a legiferare. Perché avere sempre il vincolo di mandato, come fai a trovare le leggi per fare, cioè la maggioranza per fare le leggi, come la trovi? Capisci? No, non capisco. No. Allora, un conto è rappresentare un'istituzione, un conto è rappresentare il popolo, sono due cose diverse, capisci? Se, come avviene in Germania, il Bundesrat, il Senato tedesco, tu lì non rappresenti il popolo, la nazione, tu lì rappresenti il Länder, la volontà del Länder. Quindi tu devi uniformarti a quello che ti viene detto, capisci? Ma non puoi introdurre il vincolo di mandato in una camera, diciamo, nella camera politica, cioè nella camera che rappresenta la nazione. Elettiva. Ma non si può neanche avere la possibilità di cambiare indefinitivamente partito. Infatti per quello che servirebbe la sfiducia costruttiva. Torniamo sempre là. No, bisogna correggere, bisogna correggere la forma parlamentare, perché la forma parlamentare va corretta. Scusa Vittorio, giusto per mantenere un... Lei in fondo... Ho visto che aveva la mano alzata per una domanda, prego. Ho visto che alla fine abbiamo parlato soprattutto del libro che lei sta scrivendo e non di quello che lei ha scritto. Sono complementari. Sono interessato, sì, che chiaramente siamo in un periodo particolare, capisco, però a me interesserebbe anche qualcosa su quello che lei, sul libro che ha scritto. E sinceramente, una premessa, anche io sono d'accordo, sono più che altro sorpreso, più contrariato, quando sento affermare che la Costituzione è più bella del pianeta. Io me la sono letta, l'ho letto due volte, ma non ho mai sentito l'esigenza impellente di leggere tutte le altre costituzioni del mondo come se fossero i libri del mio miglior autore. Se qualcuno l'ha fatto, non so. Non lo invidio tanto per le letture. Quindi, vorrei capire meglio, quindi giusto per criticare, però quello che mi è rimasto, forse ho scritto qualcosa, è una sua frase, è una Costituzione che si è basata, la sua critica è sugli articoli che collegano gli aspetti costituzionali all'economia, basata sul sostenimento di un welfare che è fallito. Questo è quello che mi è rimasto dalla sua illustrazione. Vorrei però, ecco, non mi soddisfa, vorrei sapere qualcosa di più, dato che sono interessato culturalmente proprio alla sua critica alla Costituzione. Questa è la prima domanda, quindi il suo libro che ha già scritto. Per quanto riguarda la seconda parte, ecco, quello che mi sorprende è che lei faccia riferimento, parli della riforma di Renzi. Ecco, mi sembra sbagliato, ma non è una questione semantica. Non è la riforma di Renzi, ma come ben sappiamo, e lei sa, è una riforma che viene dal passato, e no, ma è frutto di come necessariamente è, di compromessi molto, molto, molto, molto difficili, non solo ha un passato, ma anche ha avuto un presente molto, molto difficile. Lei si è sempre concentrato quasi esclusivamente sul Senato, quando sappiamo che quasi tutti, non va, che è pieno di dimmi di questo aspetto, ma sappiamo che non è l'aspetto principale. L'aspetto principale era appunto quello, come era stato sostenuto prima, di migliorare, perché nessuno ha mai parlato che abbiamo trovato la strada per avere in ogni caso la stabilità, migliorare le possibilità di avere un governo. Quindi la parte più importante è quello di abolire il bicameralismo paritetico, non chiamiamolo perfetto, perché quindi il dare tanta importanza al Senato, dove concordo che si potrebbe fare molto molto di meglio, e dire andiamo verso un blocco istituzionale perché assomiglia a quello austriaco, mi pare esagerato. Mentre invece l'aspetto più importante veramente è l'altro. Quando si dice che manca governabilità e allo stesso tempo da una parte si dice che abbiamo più Stato, si fa un po' di confusione. Il paradosso è questo, che manca, quando a tutte le statistiche che conosciamo, vediamo che i governi italiani durano 11 mesi, quelli della Germania durano 7 anni e mezzo e degli altri paesi pure, ci dobbiamo porre quella domanda. Non è un governo che governa 11 mesi, è un governo che forse è in grado di fare tanti pasticci, di fare sì tantissime leggi, una guaranga di leggi. Quindi c'è questo contrasto. A noi appare di avere troppo Stato quando invece abbiamo poco governo, un vero governo non abbiamo avuto. E quindi questa esigenza della governabilità, che poi sappiamo che è collegata anche alla legge, è quella più importante, non è tanto di soffermarsi su uno degli aspetti che è quello del Senato. Questo è la seconda parte. Il titolo quinto invece, secondo me, anche grazie all'ultima lettura che ho fatto della Costituzione, è un libro molto interessante che l'associazione, e ringrazio anche l'associazione per questa occasione, perché veramente siete stati gli unici a senza pensare ad un confronto come questo. Non definirei la riforma un mero ritorno al passato. Ci sono alcuni aspetti che non è semplicemente centralizzare o decentralizzare, ma mettere ordine in un caos di competenze che prima c'era. Credo, e proprio questo me l'ha confermato, che qualcosa anche qui sia stata fatta. Grazie. Sì, non ho capito proprio perfettamente la seconda parte della domanda. Io però volevo un attimo soffermarmi sul titolo quinto, perché allora ci sono gli aspetti che tu prima la sera era sennò finiamo, non parliamo mai perché il welfare è fallito. Allora il problema sostanzialmente del welfare italiano, allora quali sono gli articoli che non vanno bene nella quelli economici, è la costituzione economica, cioè 40-41, la parte dal 40 al 42, la libertà d'impresa, la proprietà privata, la capacità dello Stato di intervenire nell'economia. Purtroppo quegli articoli là, per quanto possano suonare belli e per quanto si possa pensare che appunto in quel momento storico lì andassero bene, però noi dobbiamo capire che questo, come ha detto prima Carlo, questo paese qua ha un problema di statalismo. Questo problema, questo Stato, questo paese non sa fare niente senza prima avere il permesso dello Stato, pensare lo Stato cosa ne pensa. Allora, questo paese ha bisogno di meno Stato, però per 60 anni ha vissuto di Stato. Quindi noi dobbiamo capire che il problema è come disarticolare lo Stato e il rapporto di assuefazione che c'è tra i cittadini e lo Stato. Questo è il punto, perché è inutile che ci prendiamo in giro. Noi paghiamo le tasse come le pagano in Francia, per avere i servizi del Mozambico. Questa è la verità dei fatti. Quindi è inutile che stiamo qui a dire serve più Stato, lo Stato fa bene, lo Stato fa male in Italia. È inutile che diciamo che bisognerebbe migliorare lo Stato. Lo Stato deve fare retromarcia. Il perimetro dell'azione statale in Italia deve diminuire. Con questa riforma qui il perimetro aumenta, perché lo Stato si riappropria non solo di alcuni poteri, che io sono d'accordo con lei, perché effettivamente nel titolo quinto erano state messe delle competenze alle regioni che neanche negli stati federali vengono messi. Allora, quelle due o tre materie lì, quali sono, adesso non mi vengono, cos'è? L'energia, infrastrutture, mi pare che sia, e i porti erano, sì. Forse i porti, sì, cioè quelle di interesse strategico. Ma io lì sono d'accordo, infatti quella era la correzione da fare. Ma qui siamo andati decisamente oltre, perché è stato riportato di tutto, perfino il governo dei territori, è stato riportato sotto la competenza statale. Ma allora tu mi metti una camera di rappresentanza degli enti territoriali e poi ti riprendi il governo dei territori, l'amministrazione del governo dei territori come competenza esclusiva dello Stato, che se anche il Senato interviene la Camera può comunque bypassare il Senato col voto a maggioranza assoluta. Ma stiamo scherzando, cioè capisci cosa voglio dire? Il problema è che io non sono mica contro il welfare, non dico mica che i deboli debbano morire di fame, perché a volte no, noi liberali veniamo scambiati per quelle persone lì, quelli senza cuore, gli egoisti, li lasciamo morire tutti di fame, ma chi se lo può permettere se non muore di fame? Io non sto mica dicendo questo, io sono il primo a dire che i deboli, le fasce deboli della popolazione vanno sostenute in qualche modo. Io vorrei che lo Stato non si mangiasse i soldi che non si dovrebbe mangiare e appunto venissero magari dati a chi ne ha bisogno veramente. Quello sarebbe welfare. Quello che c'è in Italia è welfare parassitario, perché tre quarti dei soldi vanno in pensioni, di quelle pensioni lì metà saranno di invalidità fasulla. Quindi è inutile che ci prendiamo in giro, questi sono fatti. Quindi è inutile che continuiamo a sventolare la Costituzione, l'articolo 40, quanto è bello. Nell'articolo 40 c'è scritto che lo Stato può fare quello che vuole, e infatti fa quello che vuole. E dopo comunque, sì, a tanti cittadini italiani, soprattutto nel dopoguerra degli anni 60 e 70, ha fatto comodo, diciamola anche questa cosa qui, che lo Stato non l'ha mica fatto tutto da solo. C'è chi ha campato sullo Stato, diciamola questa cosa qui, senza tanti problemi. Questo per rispondere alla parte del welfare di cui parlo in questo libro qui. Per tornare un attimo al titolo quinto, sono stati fatti dei pastrocchi lessicali che daranno vita a dei contenziosi in Corte Costituzionale che io non oso neanche immaginare, perché allora io me lo sono segnata questa cosa qui, perché la scrivo nel nuovo libro. Allora, lo Stato detterà disposizioni generali e comuni. Allora, abbiamo alcuni articoli dove detta disposizioni generali e comuni nel titolo quinto. Poi abbiamo le disposizioni di principio, poi abbiamo la distinzione di interesse nazionale, e in altre materie ancora determina solo una parte della materia. Ok? Bene. Allora, faccio presente che negli ultimi 10 anni la Corte Costituzionale è letteralmente impazzita per cercare di decifrare la nozione di principi fondamentali e norme di dettaglio. Allora, come è stato fatto notare dai esimi costituzionalisti, se già prima ci sono stati migliaia di contenziosi per capire cosa erano sti cavoli di principi fondamentali, quando dovranno decidere cosa sono ste cavoli di disposizioni generali e comuni e tutte le altre pastrocche che hanno fatto, poi io voglio vedere qualcuno mi venga a dire che questa riforma qua semplifica la vita alla Corte Costituzionale, io mi faccio due belle risate, capisci? Quindi sì, è ovvio che su 100 ci stanno 20 cose, un 20% che è fatto bene, ma c'è un 80% che fa prendere la bilancia decisamente dalla parte del pastrocchio. Tra l'altro vi voglio un attimo leggere, perché me la sono segnata questa cosa qui, perché la metterò come nota del libro, che giustamente Massimo Cacciari definisce la riforma modesta e maldestra. Oltretutto dice che allora, più potere al governo, lui dice che ci vorrebbe più potere al governo, ma con un impianto federalista che articola il meccanismo decisionale e un autentico senato delle regioni con i rappresentanti più autorevoli eletti direttamente e non scelti tra i gruppi dirigenti più sputtanati d'Italia. Ecco, questo è Cacciari che conclude. Io vi invito a leggere questa intervista di Cacciari, di Massimo Cacciari, su Repubblica, che trovate online. La cosa più divertente è vedere un'intervista lunga così, dove Cacciari smonta pezzo per pezzo la riforma e dice che quello che dice, che è maldestra, la montagna a parto di quel topolino, fa schifo, però alla fine dice: mi tocca votare sì perché devo fare un dispetto ai comunisti del mio partito. Queste sono le grandi ragioni solide di chi vota sì. Allora, dai. E io capisco che, guardate, io non sono né grillino né leghista, io sono penso di essere uno dei pochi veneti che non ha mai votato per la Lega, proprio una cosa, una mosca bianca praticamente. Mi dà fastidio dover dire che sono dalla stessa parte dei grillini, dei leghisti, però dall'altra parte comunque c'è Verdini e Benigni, non è che c'è fior fiore di intellettuali. Quindi lasciamo stare, vedere chi vota cosa, Alba Parietti cosa vota, se vota sì lo voto anch'io, se Salvini vota no allora io voto sì. Ecco, lasciamo stare sti giochini proprio da bambini dell'asilo. Bisogna prendere in mano il merito, i contenuti della riforma e dire, ma questa riforma qua ci porta da qualche parte o no? Perché la signora ha ragione, è andata via, vabbè, la signora ha ragione a dire che abbiamo superato il bicameralismo perfetto, ma è lo stesso discorso che facevo prima del chirurgo che opera a rene sbagliato e dice vabbè però ho operato, ma non vuol dire nulla, che tra l'altro aver superato il bicameralismo perfetto, sì è vero, ma è vero solo in parte, perché comunque sono stati fatti 8 procedimenti nuovi di tipo legislativo. E faccio presente, sempre per fare un po' guastafeste, che ci sarà, a proposito di contenziosi, grandi problemi per l'articolo, che non sono ancora segnato perché questa parte la devo ancora scrivere, vabbè. Però c'è un articolo, che adesso non mi sovviene quale sia, il 70 delle competenze, che bisogna di volta in volta, ci potrebbero essere dei problemi su come vengono, su a chi spetta attivare questi procedimenti legislativi, sì. O al Presidente del Senato o al Presidente della Camera, e c'è il problema che potrebbero sorgere questioni di competenza. Se la Boldrini dice una cosa e Grasso ne dice un'altra, che si fa con questa legge? Da dove parte? Si va in Corte Costituzionale, tanto per fare una cosa nuova. Quindi se hai finito il ragionamento passavo la parola a Vittorio che vuole fare una domanda. Dimmi. Una domanda un po' fuori dal discorso. Innanzitutto, io sono entrato fondamentalmente che ero per il sì, probabilmente uscirò che sarò per il no, ma fondamentalmente non me ne frega niente, perché sono convinto che in ogni caso, nella merda, per la francese ci rimaniamo lo stesso. Sono perfettamente d'accordo con te. E quindi, perché i problemi sono di ben altro tipo, e concordo con Carlo, i problemi sono di tipo economico e di agonia pre-recesso di questo paese. Ma al di là di questo, quello che è una domanda che è appunto fuori dagli schemi, secondo, rispetto a quello di cui stiamo parlando, è il nostro paese fondamentalmente è localista, è federalista in nato, perché comunque basta vedere ogni volta, io per primo, ogni volta che si parla di accorpamenti, eccetera, salta le barricate. E io ogni volta che ho l'occasione faccio questa domanda a chi se ne intende un po' di più, ed è, ma secondo lei in questo caso, com'è possibile che in un paese dove tutti siamo estremamente campanilisti, localisti, tendiamo a difendere il nostro territorio, al punto che ci sono le ambasciate delle regioni a momenti delle province, e poi abbiamo invece a livello poi organizzativo e poi pratico, una sorta di Moloch tipo Unione Sovietica. Cioè, è una cosa che io personalmente ho provato tante volte a ripeterci, ma non sono mai riuscito a darmi una spiegazione minimo ragionevole. Allora, volevo chiedere cosa ne pensava lei. Allora, innanzitutto la risposta è già nella tua domanda, perché localismo ormai in dottrina è usato quasi in termini dispregiativo, perché il localismo è una cosa, il municipalismo ad esempio è un'altra cosa. Il localismo italiano fa rima con particolarismo, con corporativismo, con tutela dei potentati locali, con welfare assistenziale locale, e torniamo al discorso della distribuzione della spesa pubblica. Il problema è che l'ente locale, la storia italiana, per tornare al libro qui, faccio una specie di ricostruzione cronologica un po' di quello che è successo. Quando c'è stato un pensiero federalista, un po' flebile, diciamo, un po' confuso anche ai tempi dell'Unità d'Italia, c'erano varie, diciamo, correnti, c'erano i confederali, c'erano i federalisti, c'erano. Alla fine ha prevalso il modello napoleonico, ha prevalso il modello centralista. Però quando lo Stato ha avuto bisogno di tenere sotto controllo il territorio, ha deciso che era venuto il momento di dare attenzione a questi localismi. Ma l'ha fatto non come può farlo la Germania, la Svizzera, ovvero valorizzando, responsabilizzando, individuando il disegno territoriale amministrativo più adatto. ha tracciato un po' di linee e ha detto ridistribuiamo la spesa pubblica così e tiriamo a campare. Il localismo è un virus che è nato così, perché tutti volevano la fettina di torta. Quando dai la fettina di torta poi nessuno vuole rinunciare, no? Anzi ne vogliono sempre di più. È per questo che è rimasta la cultura del particolarismo, perché è una deviazione sostanzialmente di quello che è stato fatto negli anni 60. Non c'è mai stata una visione d'insieme seria, federale, neanche negli anni 90. L'unico che ce l'aveva in maniera molto provocatoria era Gianfranco Miglio, ovviamente, che non è stato capito ovviamente in questo paese, perché purtroppo quelli che hanno buone idee... Esatto. Una scoreggia nello spazio. Bravo, lo dai in maniera più poetica. Purtroppo anche quello hanno pensato bene di metterlo nel dimenticatoio. Quando parliamo di federalismo, localismo, qua in Italia noi pensiamo che federalismo, decentramento e autonomia siano tutti e tre sinonimi. Invece già qua capisci che siamo proprio, diciamo anche prendere e andare a casa, perché già uno che ti dice che federalismo, decentramento e autonomia sono la stessa cosa, non ha capito niente di quello che sta parlando. Neanche negli anni 90, quando la Lega aveva il vessillo del federalismo, in realtà voleva un federalismo serio. L'ha detto per qualche mese, poi quella è nata a Roma e anche lì hanno visto pure loro la torta, hanno detto ma perché no, causa sta panna montata che c'è. Quindi il problema è sradicare un po' la cultura del particolarismo. E secondo me, come dicevo prima, quando ti accorgi che il nemico è un po' troppo grande, bisogna che cambi un po' strategia, inizi a lavorarlo sui fianchi. E secondo me per lavorarlo sui fianchi bisogna pensare, come dicevo prima, anche un regionalismo, un federalismo, ma non sinonimi, dipende dal progetto che vuoi fare. In ogni caso, diciamo, un'autonomia differenziata, ovvero iniziare, diciamo, col premiare quelle amministrazioni virtuose che hanno raggiunto, nonostante tutti i difetti del titolo quinto, hanno raggiunto comunque un buon bilancio dei servizi che magari corrispondono un po' anche alle tasse che vengono pagate. Parentesi. Guardate che già con Monti le tasse locali sono praticamente sparite e le regioni sono diventate esattori del governo centrale. Quando voi nel titolo quinto leggete che lo Stato si riappropria dell'autonomia finanziaria degli enti locali, in realtà se ne è già riappropriato. Non è che sta facendo il miracolo Renzi, semplicemente questa riforma cristallizza alcuni orientamenti già espressi dalla Corte Costituzionale. Per premiare quelli virtuosi, devi dargli responsabilità, devi dargli autonomia finanziaria, perché un'amministrazione che mette più tasse poi deve andare davanti agli elettori a dire io ti ho messo più tasse ma ti ho dato più servizi, ti ho dato dei servizi migliori. Si assume la responsabilità politica. Se questa amministrazione mette meno tasse e riesce comunque però ad avere degli ottimi servizi, verrà premiata l'amministrazione. È così che funziona un meccanismo virtuoso di autonomia e di federalismo. Scusa, un'ultima cosa, in Germania stanno facendo così. In Germania c'è stato 40 anni di federalismo cooperativo, dopo il federalismo competitivo che era nato con gli alleati, quando hanno riscritto la Costituzione del 49, avevano fatto un federalismo competitivo per la Germania. Avevano fatto proprio due livelli di governo come in Svizzera, tutto separato, governo centrale e enti locali, quello era proprio un federalismo competitivo. Poi i tedeschi l'hanno cambiato in cooperativo, ma adesso si sono resi conto che anche lì i soldi sono finiti. Perché le regioni, i land più ricchi, sono stancati di continuare a dare soldi ai land dell'est che stanno campando letteralmente con i soldi dei land più ricchi e non hanno neanche mai provato a fare delle politiche virtuose di bilancio. Si sono stancati. E pur mantenendo un'impostazione cooperativa che è quella storica del federalismo tedesco, hanno fatto le ultime riforme in direzione di una maggiore competitività fra i land. Perché hanno capito che per competere sul mercato globale tu devi mettere in competizione gli enti locali, perché è così che poi sul mercato globale tu vinci, non ricentralizzando. Mi ero dimenticato di dire che la mia domanda si articolava con un inciso, che era questo, è brevissimo. Come vedi invece l'articolarsi contemporaneamente del referendum sulla riforma costituzionale centralista e i due referendum che verranno in Lombardia e in Veneto con tutti i suoi tre pro e contro, comunque in cui chiedono fondamentalmente dateci più autonomia, io mi chiedo, mettiamo che vincesse il sì nella riforma in tutta Italia, come è successo con la riforma costituzionale del 2006, e in Lombardia vince il referendum che dice no, dateci più autonomia, cioè è cortocircuito puro quello lì. è la questione settentrionale del paese che nessun governo ha mai affrontato. Purtroppo c'è, bisogna dirlo, c'è una parte dell'Italia che è virtuosa e una parte dell'Italia invece che non riesce a proprio venire fuori da quella spirale di statalismo che ormai l'ha assolfatta. Io ho degli amici, io vivo in Campania, quindi voglio dire, la mia fidanzata è di Salerno, quindi io sono veneto, quindi ho una certa, diciamo... Ecco perché non hai mai votato Lega, perché se tornavi a casa poi ti dava la E guarda che pure Bossi c'è la moglie calabrese, eh. Comunque, io ho una certa visione, diciamo, di quella che è la differenza nord-sud, e ho anche una certa visione di quella che è la differenza all'interno delle regioni italiane, perché se tu vai a Salerno, vai a Napoli, è come se tu andassi da... da Berlino a Mosca, sono cose completamente diverse. Quindi il problema è fare in modo che questa parte del paese si disintossichi anche. È normale, come dici tu, che potrebbe capitare un cortocircuito. Ti posso dire una cosa? Io sinceramente non ho paura di cortocircuito. È una settimana che pare che sia finito il mondo perché c'è stato questo referendum in Inghilterra, nel Regno Unito, che pare, oh mio Dio, cioè, io ho letto i giornali il giorno dopo, niente, uno si butta dal carrazzo, dice, vabbè, è finito il mondo, ciao, abbiamo finito. Allora, calma, prima di tutto. Se dovesse succedere che i movimenti indipendentisti che ci sono in Veneto, in Lombardia, dovessero riuscire a elaborare delle proposte credibili, anche attraverso degli strumenti di pressione come può essere il referendum, ben venga. Se è destino che il paese debba cambiare fisionomia, ben venga. Cioè non sono cose che sinceramente non mi fanno dormire la notte. Dico solo che, come dico sempre, la vedo un po' difficile, perché comunque ricordiamoci che questo è un paese chiuso, cioè la Repubblica è una indivisibile. Quindi la vedo purtroppo molto difficile che possano essere, si possa arrivare... le zone più ricche si stacchino dal resto del paese. Sì. Però inviterei a non sottovalutare, come fanno anche molti miei amici, che sostanzialmente per cui questa cosa dell'indipendentismo, dell'autonomia, sono un po' delle carnevalate. Sì, sicuramente non c'è fiorfiore di classe dirigente che possa intestarsi delle battaglie di questo tipo, diciamo, dai, se mica niente di male. Ma invito sempre a non sottovalutare, perché a Farage gli vedevano in faccia quando 5 anni fa diceva che il Regno Unito sarebbe uscito dall'Unione Europea. Mi pare che sia un po' passata la voglia di ridere un po' a tutti, anche a Farage stesso, che secondo me gli è sfuggito un po' il gioco di mano. Lì sono tanti che sono rimasti col cerino in mano. Cameron, che pensava di vincere, ha detto convoco il referendum, ha detto che perché voleva eliminare l'opposizione interna 2 anni fa, ha detto faccio il colpo di teatro, però tipo Renzi. Attenzione! Perché sta già passando un po' il messaggio che se tu voti no, sei come Farage e sei come gli esotici che hanno dei pub, gli ignoranti che hanno votato per il Brexit e tutta questa cosa qua. Poi andiamo a vedere i dati, il 64% dei giovani inglesi tra 18 e 24 anni se ne è stato a casa e non è andato a votare. Però, che è peggio ancora. Però attenzione, perché nelle prossime settimane vedremo il tentativo da parte di Renzi di gettare paura sul referendum, di dire mi raccomando state dalla parte giusta della storia, perché sennò facciamo la fine dell'Inghilterra. E sì, io vi invito sempre a diffidare da tutti gli estremismi, sia di quelli che vi dicono sì di votare sì, sia di quelli che vi dicono di votare no. Quando vedete che uno alza troppo i toni è perché non ha argomenti. Bisogna sempre valutare il merito delle cose. Io stasera non credo di aver distribuito verità rivelate, sono mie opinioni. Le metterò per iscritto entro il mese di luglio, così tutti... torni a Piacenza a presentarlo in tempo utile magari per il referendum, perché sennò se vieni dopo andiamo a mangiare i tortelli. Volevo fare una domanda, c'è qualcuno che aveva altre domande? Ah, io volevo fare una, però sono molta domanda da fine serata. Io vado a rivedere gli altri 2 incontri precedenti e vedo un po' le reazioni dei nostri relatori che hanno preceduto rispetto agli scenari che succederanno in caso di una vittoria del Sirio. Cali dell'Elogio sostanzialmente ha risposto con un singolo movimento della spalla destra, no? Quindi praticamente ha detto non cambierà niente. La Limonte ha avuto una posizione più netta, se vince il sì chiaramente scorrerà il fiume latte e miele, se vince il no scenderanno le cavallette e vince il posto in 10 campioni. E per vedere, sapere la tua opinione circa gli scenari che ci saranno in caso di vittoria del sì o del no. Allora, intanto secondo me verrà rimandato il referendum il più possibile. perché adesso Renzi ha bisogno di tempo, perché sa benissimo anche lui che se va a votare il 2 ottobre, come mister Renzi voleva fare, cioè addirittura anticipando il giudizio della Corte Costituzionale, perché ricordiamoci che il 4 ottobre la Corte Costituzionale si dovrà esprimere sull'Italicum e potrebbe anche già cambiare i famosi profili di stabilità dell'Italicum. Quindi, quindi attenzione. Renzi voleva anticipare tutti e votare il 2 ottobre. Adesso non lo può più fare e molto probabilmente cercherà di rimandarlo il più possibile per fare la mossa del cambiamento dell'Italicum e cercare di soddisfare la minoranza del PD, Alfano, una parte anche magari di Forza Italia, e disgregare il fronte del no portandolo per il sì. Questa è l'unica cosa che può fare per tentare di vincere il referendum. Rischiando di perdere i sostenitori dell'Italicum, non pidini come sottoscritto, perché tutto sommato l'Italicum non fa schifo fatto così, tutto sommato. È l'unico modo per andare a perdere il sostegno extra partito, a mio modo di vedere. Quindi, gli scenari secondo me sono molto in divenire, e questo secondo me mette molto in difficoltà i sostenitori del sì, perché ripeto, le loro ragioni dal mio punto di vista sono veramente molto deboli, soprattutto dal punto di vista della dei famosi governabilità e stabilità, molto molto molto deboli. Un mio amico l'altro giorno mi ha detto: io voto sì perché in questa riforma vedo il presidenzialismo. Va bene, io ci vedo la Madonna, gli ho detto allora. Ognuno ci vede quello che vuole. Dove va il presidenzialismo su sta riforma? Ecco, allora. Con Mattarella un po' potrebbe anche essere, tutto sommato, le dialettiche istituzionali. Un po'. Comunque, aspetta, però devo rispondere a lui, però. Mi introduco un attimo. Peggio per peggio, porto sì, perché comunque peggio di così. Guarda, rispetto il tuo punto di vista, io ho la certezza assoluta che peggio di così non può andare. Questo è un errore filosofico. Al peggio non c'è mai fine, e lo sai perché rischi? Perché nel 2001, io credo di sì. Spero non in questa occasione. Allora, nel 2001, quando il centro-sinistra, nel 2001, quando con i voti della Lega, per accaparrarsi i voti della Lega, andò a votare la riforma del titolo quinto prima della fine della legislatura, sì, con due voti, dissero: è sempre meglio di niente. Mi pare che sul titolo quinto poi abbia fatto qualche problema, tant'è che adesso stiamo dicendo che abbiamo dovuto correggerlo. Quindi ricordo le mie parole di prima, che poi fra 5 anni ci dicono: ma questa riforma non ha funzionato bene. Vabbè, può essere. Il discorso della stabilità, di quello che capiterà dopo, sinceramente ti dico la verità, le variabili sono così tante. È come nel discorso della Brexit. O sono tutti diventati profeti da una settimana, o ci sono persone che hanno scritto articoli per filo e per segno quello che capita di qua. Scenario completamente diverso. Madonna, dico, questa gente ha la sfera di cristallo. Di banditi in giro per le strade, c'è gente che manco si è accorta. Magari è caduta e sprofondata nel frattempo, sì, che stiamo parlando, non lo so. Quindi non so dirti di preciso cosa accadrà. Di sicuro non ci sarà il caos, perché il caos è già stato raggiunto nel 2013. Quando c'è stato lo stallo per l'elezione del Presidente della Repubblica, lì è stato toccato il punto più basso della storia istituzionale della Repubblica Italiana. E lì è stato il vero e proprio stallo istituzionale. Quindi, dal momento che tanto il Presidente della Repubblica non dobbiamo eleggerlo... Dobbiamo ancora eleggerne uno con questo Senato, però. Che senso? Dovremmo eleggerne un prossimo, eventualmente passasse il sì, dovremmo eleggerne un prossimo con questo Senato. Su questa cosa qua non mi esprimo neanche, perché anche lì ci sarebbero dei profili da analizzare. Però, secondo me, mal che vada... potrebbe cadere il governo Renzi. Io non ci credo neanche che, guarda, se tu mi dici: ma ci credi che Renzi si dimetta se perde il referendum? Assolutamente no. Io non ci credo assolutamente, perché dirà che il paese non può essere lasciato da solo. Metti caso che in questi mesi si riaccende un po' la crisi greca, che non è mai sopita, ragazzi. Si riaccende qualcosa magari a livello economico, le borse cadono, turbulenze, comunque le turbulenze dovute alla Brexit ci saranno per le prossime settimane. Ci hanno dato l'ok sulle garanzie. Quindi, se dovesse esserci uno scenario internazionale molto, molto negativo, io dubito che se dovesse perdere il referendum il giorno dopo, come è stato detto e hanno detto più volte, Matteo Renzi e la Boschi finiscono la carriera politica e si ritirano a vita privata. Io non credo che questo avverrà. Credo che quello del caos sia solo uno slogan, come tanti altri slogan, come lo slogan di chi vota sì manda a casa i politici, chi vota sì, allora, chi vota sì a favore del risparmio degli stipendi, a favore del... Allora, a me un presidente del Consiglio che ha già mandato a casa Cottarelli, okay, che viene adesso a parlare di ottimizzazione della spesa pubblica perché mandiamo a casa 100 senatori, io gli rido in faccia. Dico, ragazzo mio, per fare la spending review non occorre fare la riforma costituzionale, basta una legge ordinaria. È la volontà politica di farla, perché la signora prima ha detto una cosa giusta sul rimpallo del bicameralismo, perfetto, per carità. Però autorevole dottrina, se perché potete controllare su internet, ha dimostrato che comunque questo rimpallo non è stato così disastroso in termini di posizione legislativa. Mi pare che la legge, di legge ne abbiamo prodotte tante lo stesso, e mi pare che quando c'è stato da approvare il decreto Salva Italia e tante altre leggi emergenziali, sono state approvate in una settimana. Quello che fa la differenza è, come sempre, la volontà politica di fare le cose. Allora, quando una persona, un Presidente del Consiglio, viene a dire che devo votare sì perché sennò sono uno che vuole far spendere più soldi allo Stato, gli dico, caro signore, se tu vuoi venire a parlare di spesa pubblica, tu prendi in mano il dossier Cottarelli e inizi ad approvare qualcosa di quello che ti ha suggerito Cottarelli. E poi vai davanti agli elettori con la tua faccia di bronzo a dire che quelli che votano no sono contrari a far risparmiare soldi. Capisci cosa voglio dire? Che gli slogan, come sempre, stanno a zero e vanno verificati. Perché rispondere al pensiero breve dei grillini con il pensiero breve renziano è la cosa più sbagliata che si possa fare. Perché questo paese ha bisogno di credibilità, ha bisogno di autorevolezza e ha bisogno di fare le cose, no di slogan. E questa riforma è un grandissimo slogan. E basta. Questi veneti quando iniziano a parlare non si fermano più. Fermo io. Vi ringrazio per essere intervenuti a questo terzo e ultimo incontro organizzato dall'associazione su intuizione di Alberto, che ringrazio per l'idea di offrire alla città questo momento che credo sia stato davvero, davvero importante. Non è detto che da qui a quando si terrà il referendum la nostra associazione non svolga altre iniziative. Fuori, per chi non l'avesse ancora preso, c'è un libercolo che l'associazione ha realizzato e che è a disposizione della comunità. In futuro verranno organizzate anche delle iniziative per distribuirlo nelle università, anche per strada faremo dei banchetti per cercare di dare un'informazione il più compiuta possibile. Così, un auspicio personale, gli inglesi hanno ritenuto di uscire dall'Unione Europea votando come hanno votato. Se non sbaglio l'83% ha votato, il 73%, numeri che per le nostre abitudini sono miraggi. Ecco, un auspicio che come associazione ci diamo è che in un senso o nell'altro, come avete visto, ci interessa poco portare avanti una tesi come associazione, che ci sia la massima partecipazione e approfondimento prima della votazione, che la democrazia tutto sommato non è poi una cosa così scontata come nel mondo ancora si vede, quindi speriamo di aver fatto un servizio in vista di questo voto. Grazie e arrivederci per le prossime iniziative. Registrazione perché la faccio avere.